Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Fuori il notebook, dentro il metano per auto. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Come ogni anno cambia, viene aggiornato il paniere dell'Istat, lo strumento per misurare l'inflazione, e racconta le nuove abitudini degli italiani di spesa, ma non solo. Tiene conto del crollo dei consumi? Secondo le associazioni dei consumatori, no. Questo è il tema dell'approfondimento della settimana di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Focus sui trend dedicato ai consumi smart, quando i prodotti intelligenti fanno tendenza. Prima ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Non si arresta la crisi dei consumi in Italia e investe anche i centri commerciali, che a gennaio registrano un calo di oltre il 5%. A pesare di più, secondo i dati Nielsen per Confimprese, la situazione degli ipermercati, che hanno perso un secco 3,2%. Passerà alla storia della moda come il primo passo dello sbarco cinese in via Monte Napoleone, e da qui verso l'Europa. Giada, marchio cinese di abbigliamento di lusso femminile, si è assicurato una posizione di prestigio nella via milanese per un temporary store che aprirà per la settimana della moda, in programma dal 20 al 26 febbraio. A giugno, il negozio definitivo. Greenpeace ha assegnato i bollini verdi a 15 case d'alta moda. Tra le maison si è distinta l'italiana Valentino, seguita ex aequo da Armani, Dior, Vuitton e Gucci. Fanalino di coda Roberto Cavalli. Tra le pecore nere, Zegna e Versace. Bollino nero anche a Alberta Ferretti, Chanel, Dolce Gabbana, Hermès, Prada e Trussardi, per non avere mai risposto alle domande dell'organizzazione ambientalista. A Milano, il mondo che abiteremo. Questo è il titolo de I Saloni 2013, 52esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 9 al 14 aprile. L'Oréal Paris prepara il suo ingresso nell'e-commerce. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il gruppo lancerà a marzo il suo portale dedicato alla vendita online. In una prima fase sarà limitato al mercato d'Oltralpe. Savile Row, l'iconica via della sartoria inglese nota per il suo understatement, dice no a un nuovo negozio di Abercrombie & Fitch. L'eredità di questo luogo va preservata, ha fatto sapere il comitato di zona, che ha ritenuto inaccettabile la richiesta del marchio americano, famoso per la musica a tutto volume e i modelli a torso nudo all'entrata. La borsa della spesa. E quali sono i prodotti e i servizi che determinano la nostra spesa di ogni giorno? Quest'anno sono 1.429. Sono contenuti nel cosiddetto paniere dell'Istat, lo strumento che disegna la mappa della spesa delle famiglie italiane e serve a calcolare l'inflazione. Come ogni anno, il paniere subisce una rinfrescata e assiste ad addi e new entry. Nel 2013 escono notebook e agende, entrano la lettiera per gatti, pensate, l'aceto balsamico, il taxi per l'aeroporto e il metano per auto, sempre più diffuso. Ci racconta tutte le modifiche Roberto Monducci, che è il capo dipartimento delle statistiche economiche dell'Istat. Quest'anno gli aggiornamenti sono stati limitati, perché ormai, diciamo, la dimensione e la complessità del paniere sono piuttosto elevati e quindi la necessità di aggiustamenti è sempre inferiore al passato. Comunque la parte high tech chiaramente è la parte con più movimentazione di prodotti in entrata e uscita, perché il progresso tecnologico è molto intenso. Quest'anno sono entrati due prodotti tecnologici, appunto il phablet, il cosiddetto phablet, che è un prodotto intermedio tra smartphone e tablet, e poi anche i tablet trasformabili. Questo per quanto riguarda la parte più tecnologica. In realtà sono entrati anche prodotti più tradizionali, come il gas metano per autotrazione, che si affianca al gasolio, alla benzina e anche al GPL. Deve essere inserito perché il consumo è in crescita, anche se non ha una dimensione paragonabile a quella del GPL. Anche in altri settori, come per esempio l'alimentare, sono stati inseriti dei prodotti come ad esempio quello del reintegratore energetico, e il consumo è elevato e quindi questo prodotto ha titolo ad entrare nel paniere. Infine citerei anche ingressi nel settore dell'abbigliamento, che comunque è un settore complesso e che ancora richiede qualche aggiustamento. Poi, come ogni anno, alcuni prodotti sono usciti dal paniere, perché altrimenti la dimensione del campione tenderebbe a divenire troppo elevata. Tra gli usciti abbiamo i fichi freschi, sotto il capitolo degli alimentari, poi abbiamo i netbook, che escono proprio perché sono stati spiazzati dai prodotti più avanzati, e poi per esempio è uscita la mediazione civile perché non è più obbligatoria. Quindi, come si vede, insomma, le operazioni di entrata e uscita dal paniere risentono sia di fenomeni di mercato sia di variazioni tecnologiche sia di variazioni normative. Mai come in questi mesi di crisi sono cambiate le abitudini di spesa dei consumatori. In che modo il paniere di quest'anno rispecchia la crisi? Come ogni anno noi cambiamo, oltre che la lista dei prodotti, anche i pesi con cui questi prodotti entrano nel paniere, e i pesi risentono chiaramente della situazione economica, nel senso che rispecchiano quello che le famiglie spendono per i diversi capitoli di spesa. Quest'anno sono aumentati di peso i beni e servizi compresi nel capitolo delle abitazioni, essenzialmente perché sono aumentate moltissimo le bollette energetiche, del gas e quindi anche le tariffe. Quindi abbiamo riscontrato che nei consumi delle famiglie pesano sempre di più beni e servizi per l'abitazione. È aumentato anche il peso del capitolo delle comunicazioni, questo chiaramente ha altri tipi di origine come incremento, dipende proprio dal fatto che i consumatori comunque tendono a spendere molto per le comunicazioni, perché è un settore in crescita, perché ormai è uno strumento, il telefonino, insomma, i computer con accesso a internet comunque sono dei prodotti assolutamente vitali, direi a questo punto, quasi come gli alimentari. Dal lato opposto hanno diminuito di peso per esempio i servizi sanitari e anche l'abbigliamento. Quindi questo è un po' una fotografia di come nell'ultimo anno sono evoluti i consumi delle famiglie. L'Istat non tiene conto del crollo dei consumi reali, denuncia però il Codacons, secondo cui il paniere sottostima le spese sostenute dagli italiani. Il presidente Carlo Rienzi. Io non capisco chi li fa questi panieri dell'Istat, perché li dovrebbero fare con i consumatori, con le famiglie, con i cittadini, pensano di essere autoreferenziali e poi finisce che sottostimano le spese più importanti di una famiglia, per cui noi abbiamo calcolato che facendo pesare spese che non sono necessarie e invece sottostimando quelle necessarie, che sono le bollette, la luce, l'acqua, il gas, eccetera, hanno fatto un danno a famiglia di 256 euro all'anno più o meno. Quindi speriamo che cambi questo metodo, che è del tutto balordo. Si sono spostati i consumi sono solo sul necessario, addirittura l'alimentazione è diminuita, quindi stringiamo la cinghia per tutto quello necessario, ma abbiamo abolito gran parte dei consumi non necessari, cosiddetti voluttuari. Quindi che senso ha avere un paniere che non tiene conto che siamo in questo periodo di crisi? La replica di Roberto Monducci. I nostri sistemi di misurazione sono avanzatissimi, la qualità delle statistiche italiane è riconosciuta a livello internazionale e non abbiamo nessun tipo di dubbio sul fatto che il paniere rispecchi fedelmente quelli che sono i comportamenti di spesa delle famiglie. È evidente che si tratta comunque di una struttura della spesa che è quella complessiva dell'intero paese, quindi è chiaro che se si ha in testa un concetto per esempio di spesa corrente, di spesa più legata alle abitudini quotidiane, i pesi del paniere potrebbero non rifletterli. Ad esempio, il peso dell'acquisto di mezzi di trasporto a livello generale, complessivo dell'intera economia, è pari a quello degli affitti. Questa sembra una cosa assurda, però sono i fatti. È evidente che questi elementi, diciamo, di spese eccezionali o comunque di spese che nell'esperienza di consumo di una famiglia accadono ogni 5 anni, ogni 8 anni, però da un punto di vista del bilancio generale del paese devono entrare, e quindi questo provoca proprio una differenza tra le percezioni dei consumatori per quanto riguarda la loro struttura di spesa corrente, quella che viene effettuata ogni mese, ogni giorno, e quella che invece è la struttura dei consumi dell'intera economia. Essere e avere. I surrogati umani robotici uniscono la durabilità di una macchina alla grazia e alla bellezza del corpo umano. Da quando la maggior parte della gente vive attraverso il suo surrogato, il nostro mondo è diventato un posto più sicuro. Dalla vostra poltrona stimolante, con il solo potere della mente, potete controllare il vostro surrogato e farlo andare nel mondo reale. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Quanta tecnologia c'è nei nostri consumi quotidiani? Quanto sono intelligenti i prodotti e i servizi che acquistiamo, che acquisteremo nel prossimo futuro? Questo è il tema del Focus sui Trend di questa settimana, dedicato ai consumi smart. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Ciao Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dai QR code alla realtà aumentata, dai touchscreen alle app sul nostro telefonino che modificano le abitudini di tutti i giorni, la tecnologia diventa sempre più protagonista nel mondo dei consumi. Interessa i negozi, ma anche i ristoranti, gli spazi pubblici, trova applicazione nei sistemi di pagamento, nella promozione del marketing, e si nasconde anche dentro i prodotti più insospettabili. Patrizia. Sì, il web, le reti, la tecnologia hanno generato un nuovo tipo di consumatore che ormai viene definito smart consumer. Consumatore intelligente, scaltro, consapevole. E che cosa fanno i consumatori smart? Beh, lo diciamo spesso, si destreggiano bene, usano il loro nuovo potere negoziale con le aziende, si alleano tra loro, cambiano ruolo e producono, oltre che consumare, insomma, stanno ridisegnando la scena dei consumi. Questo grazie alle tecnologie connettive, soprattutto mobili, quindi nostri telefoni, tablet, computer, che potenziano e velocizzano da un lato i processi informativi non solo su prodotti e servizi, ma anche aumentano le possibilità di consumo continuo, che introducono nuove pratiche ed esperienze anche nel quotidiano. Nell'era del cosiddetto internet delle cose e per le cose, la mobilità per esempio è un settore di mercato che esprime interessanti innovazioni in termini di prodotti, le automobili sempre più intelligenti che scambiano dati con l'intero sistema del traffico, oltre che con il conducente e i passeggeri, ma anche innovazioni di servizi in linea con i cambiamenti economici e sociali del presente. BMW, per esempio, ha lanciato il servizio Drive Now, un servizio brandizzato di car sharing, quindi un parco automobili dei suoi marchi da noleggiare, localizzabili con lo smartphone, sbloccabili con il chip della patente, utilizzabili a 29 centesimi al minuto, carburante incluso, con, questo è il dato interessante, un servizio di parcheggio gratuito ovunque nelle città in cui è attivato in Germania. Avvistato recentemente sul metro di New York, Sergey Brin, cofondatore di Google, indossava i tanto attesi Google Glasses, gli occhiali con cui guardare il mondo e vedere più di quel che c'è e più di quello che vedono gli altri. Sono gli occhiali con realtà aumentata, sulle lenti strati di informazioni digitali che appunto arricchiscono la visione. Disponibili pare dal 2014, l'impatto sulla vita, sul lavoro, sui consumi anche e soprattutto culturali è tutto da inventare e progettare. E dagli occhiali che potenziano la realtà a quelli abilitanti alla lettera, compensativi cioè di deficit come quello uditivo che limitano fruizioni come per esempio andare al cinema. Sono nati gli occhiali per leggere i film. Per la prima volta a Roma il novembre scorso un'intera sala cinematografica si è riempita di persone non udenti. Grazie all'app Movie Reading e agli speciali occhiali high-tech Epson, un microfono riconosce l'audio della pellicola e riproduce istantaneamente i sottotitoli sulle lenti. L'app funziona anche su smartphone e tablet ed è utile anche, per esempio, per chi voglia guardare un film straniero leggendo i sottotitoli nella propria lingua. Con in mente i consumatori smart, quindi abili e abilitati dalla tecnologia, le possibilità per il marketing aumentano a dismisura. Un esempio, la catena Imart in Corea ha fatto un'iniziativa di couponing per aumentare le vendite nell'ora di pranzo nei punti di vendita che a quell'ora si svuotavano. Una meridiana posta fuori dai negozi, che solo tra le 12 e le 13, grazie ai raggi solari, diventa un QR code e consente l'accesso al sito del negozio per acquistare i prodotti in promozione. I numeri dell'iniziativa hanno confermato l'efficacia di questa idea multicanale tra online e offline. Rimaniamo in Corea per citare l'e-payment, cioè i pagamenti via smartphone, altro gesto smart che ora si può cominciare a fare anche in Italia. Ispirati dal caso del supermercato Tesco nelle stazioni del metro di Seoul, caso ormai paradigmatico, la catena di elettronica Media World in Italia vende i propri prodotti nelle stazioni con i QR code. Il consumatore passa, scansisce il codice col proprio smartphone, paga in questo caso con la carta di credito e si vede consegnare il prodotto a casa. Il retail ha già incorporato altri dispositivi intelligenti per facilitare e influenzare il processo di scelta e di acquisto, offrendo esperienze aumentate. E torniamo alla realtà aumentata. A Mosca Topshop, marchio moda, ha installato camerini virtuali per provare gli abiti in 3D, quindi senza spogliarsi. Negli Stati Uniti Kraft ha installato una serie di chioschi che propongono ai consumatori dei menu personalizzati, e Shiseido utilizza in molti punti vendita degli specchi per le prove di trucco senza il trucco vero. Ma quando la tecnologia smette di esserci utile e inizia a diventare dannosa? È un tema molto dibattuto, oggetto da tempo di libri e film, oggetto di Black Mirror, una miniserie TV inglese che cerca di metterci di fronte al lato oscuro della tecnologia. Tutti lo vedranno. Il mondo lo vedrà. È uno scherzo, vero? Chi diavolo credi che alimenti quei dannati riflettori? Sono in un posto che voi non potete trovare. Quanta gente lo ha visto? Quante persone? Tu sai che metà dei nostri ricordi sono spazzature? Vorrei solo avere la possibilità di assistere a qualcosa di reale. L'autenticità è una merce davvero rara al giorno d'oggi. Patrizia, anche le città, gli spazi pubblici diventano sempre più smart. Sì, lo sono, nel senso che gli elementi urbanistici diventano interfacce di accesso a informazioni e servizi utili per i cittadini. A Londra, per esempio, i cestini Renew hanno schermi digitali e in tempo reale offrono informazioni e notizie, gli orari dei mezzi pubblici, gli aggiornamenti della borsa, le previsioni del tempo, l'agenda degli eventi locali, pubblicità, eccetera. Ma in tutta Europa, anche in Italia, per esempio, le cabine telefoniche smart hanno schermi per informazioni di questo tipo. A Parigi le pensiline intelligenti con schermi tattili interattivi sono appunto un modello di multiservizio per i cittadini. Per esempio, un servizio Trova Lavoro, che permette di localizzare e consultare le offerte di lavoro divise per settore e quartiere. A Rio de Janeiro, QR code innestati nei marciapiedi, letteralmente, cioè fatti sostituendo i sempietrini neri a quelli bianchi e formando il classico codice Quick Response per dare informazioni ai turisti in spagnolo, portoghese e inglese. Un dispositivo facile e ad altissima efficacia che proprio per questo Rio de Janeiro prevede di utilizzare massicciamente per i Giochi Olimpici del 2016. A Washington, per esempio, per incentivare i cittadini a prendersi cura degli alberi del proprio quartiere, in 4 zone della città sono stati piantati nuovi alberi, ciascuno dotato di un'etichetta identificativa potenziata appunto da questo codice. I passanti leggono il codice, compilano un form online, dichiarano il proprio interesse e si prendono cura dell'albero, in poche parole lo adottano. Guerrilla Gardening 2.0. Passando agli spazi privati, anche qui interfacce tattili, comunque interattive, che diventano parti strutturali delle pareti, case, ristoranti e alberghi. Touch in Paris è il primo ristorante in Francia ad invitare le nuove tecnologie a tavola. I tavoli sono effettivamente dei tablet per ordinare, navigare, fare attività di social networking mentre si mangia. È solo un prototipo, si chiama Room Experience, una stanza d'albergo domoticamente avanzatissima con le pareti touchscreen, ma non solo, anche i pavimenti e gli specchi sono interattivi, presentata all'ultima edizione della Fiera Internazionale del Turismo di Madrid. Direzione evolutiva digitale e tecnologica, dunque smart anche per l'abbigliamento. Quello che abbiamo addosso può diventare un touch point, cioè un punto di contatto tra il consumatore e il brand. Replay, marchio italiano di jeans, ha lanciato la linea Social Denim. Jeans con una quinta piccola tasca in vinile per contenere un piccolo dispositivo Bluetooth che si connette con lo smartphone di chi li indossa e consente di aggiornare costantemente la propria posizione geolocalizzata e ricevere naturalmente informazioni commerciali e promozioni direttamente dal brand Replay. Prodotti smart per bambini con obiettivo divertimento. Sono i cerotti Band-Aid dei Muppet, già pensati per i bambini, che grazie alla realtà aumentata diventano però ancora più animati e divertenti. Si punta il tablet verso il cerotto e si interagisce con i pupazzi Disney. Dunque si fa cantare Kermit la rana, si fotografa Miss Piggy sul red carpet e si shakera Gonzo. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Boston sui consumi smart? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Interagire e ricavare ogni genere di informazioni da una lampadina. Al Museo della Scienza della città americana questo è possibile. L'impianto di illuminazione a LED, infatti, integra un sistema che attraverso delle pulsazioni luminose, invisibili all'occhio umano, è capace di far dialogare ogni faretto con le fotocamere di iPad e smartphone. Per cui i visitatori che hanno scaricato l'apposita app possono ottenere indicazioni per orientarsi, guide sulle installazioni in mostra, mappe, offerte speciali, insomma tutte le informazioni utili, ma cosa più importante, aggiornate in tempo reale e legate al punto specifico in cui si trovano. In questo modo, oltretutto, il museo dispone di un efficace strumento per analizzare il traffico di visitatori e misurarne il grado di coinvolgimento in occasione delle diverse mostre per capire quali sono quelle di maggior successo. Trattasi della prima applicazione di una nuova tecnologia che si chiama Byte Light, che è stata sviluppata da un'azienda del Massachusetts e che promette una piccola grande rivoluzione nell'ambito dei dispositivi intelligenti, Wi-Fi e QR code in primis. Sfruttando infatti un impianto esistente, quello di illuminazione, questa tecnologia ha zero costi di installazione ed è quindi molto più economica del Wi-Fi e di gran lunga più interattiva e meno esteticamente impattante, soprattutto in un museo, di un QR code. Grazie Alessia. Patrizia, quanto sarà importante d'ora in avanti l'aggettivo smart nei consumi? Ma sempre di più, non considerare la crescente smartness, l'intelligenza dei consumatori e la loro capacità di uso sia tecnico che strategico delle dotazioni nel passaggio proprio al web 3.0, abbiamo parlato di internet delle cose, è una grave sottovalutazione da parte di aziende e brand, perché questo aumenta le possibilità di intercettare e connettersi con le persone. Si tratta di costruire i giusti ponti. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate sul sito Radio 24 sezione programmi e sulla nostra pagina Facebook. Aspettiamo commenti, idee e suggerimenti in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.